metti quel vestito, che sai che è del mio colore preferito. Poi la scarpa col tacco, quella con la suola rossa sì che costa un sacco. Dopo mandami un bacio, ci sto sotto dai. Ho il chiodo fisso, sei la protagonista del nuovo disco. No no, non sono ricco, fammelo vedere come si sgo. Amo quando ti metti davanti, sei bella come un coglietto di diamanti. Non sento più i commenti degli altri, siamo meglio di Offset e Cardi. Resto a casa solo per giocare con la Nintendo. Ma se chiami per uscire vengo da te un minuto, mi cambio mosse. Bevi e non parli con me, salgo sul taxi senza di te. Baby, lo conosci il mio limite, ti chiamo domani ma dai. Quando mi fa incazzare lo sai, fumo solo marijuana all night. Questo dramma corre sopra le Nike. Più ci ripenso e mi sembra che questo non è amore. Mi manchi forte ogni momento, sì baby lo ammetto. Tipo che mi sveglio e ti cerco, non ci sei nel letto. Mi manchi che divento matto, che il tempo si ferma ed ogni minuto sembra un anno, sì tipo Interstellar. Mi manca che te ne vai in giro in casa sulle punte, tu che con quelle gambe lunghe puoi arrivare ovunque. Mi manchi perché sono super tutte le tue curve. Sai che la mia schiena è la tua tela, filaggi le unghie. Yeah yeah, stai con me stanotte, mentre tutto il mondo dorme. Urliamo forte, sì così tutte le volte. Sì ci c'è che diamo come un cocktail, come gli animali nelle grotte. Forse è vero che ora ci sto sotto, forse è vero non ne ho mai abbastanza. Siamo gas e poco si facciamo il botto, diamo fuoco al mondo dalla nostra stanza. Resto a casa solo per giocare con la Nintendo. Ma se chiami per uscire vengo da te un minuto, mi cambio mosse. Bevi e non parli con me, salgo sul taxi senza di te. Baby, lo conosci il mio limite, ti chiamo domani ma dai. Quanto mi fa incazzare lo sai, fumo solo marijuana all night. Questo dramma corre sopra le Nike. Più ci ripenso e mi sembra che questo non è amore ma karate.